Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi da Nicoletta. Lo abbiamo appena ascoltato durante il nostro GR. Jeffrey Hall, Michael Rosbach e Michael Young hanno ricevuto il Nobel per la medicina per i loro studi sui meccanismi molecolari che controllano i ritmi circadiani, ossia il comportamento dell'orologio biologico. Ne parliamo a Obiettivo Salute con il professor Roberto Manfredini, direttore del Dipartimento di Scienza Medica all'Università di Ferrara ed esperto di cronobiologia clinica. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Intanto una bella notizia che dà una consacrazione scientifica a livello mondiale alla cronobiologia. Partiamo da qua. Notizia bellissima, diciamo che nel mondo della scienza non è una novità che i ritmi circadiani dell'individuo sono regolati a livello genetico molecolare, ma un conto è nel mondo ristretto degli scienziati e un conto che l'Accademia del Premio Nobel abbia deciso di consacrare nel mondo questa notizia che sdogana tanti ricercatori che avevano creduto in questo già nei primi anni '80, e grazie a Mike Young e ad altri come lui, quando nell'86 descrisse per la prima volta nel moscerino la mutazione su un cromosoma che voleva dire che c'erano dei geni deputati esattamente ai ritmi circadiani. Professore, ma quali sono le implicazioni nella vita quotidiana degli studi dei tre Nobel? Le implicazioni sono talmente vaste che forse è anche quasi difficile comprenderle, perché si va da qualunque aspetto della vita quotidiana. Nella nostra giornata, per qualunque cosa noi facciamo, in benessere o nella malattia, ogni funzione del nostro organismo, delle nostre cellule, del nostro corpo, ha dei momenti nella giornata di massima o di massima attività o di minima attività. Dei momenti in cui ci sentiamo meglio, dei momenti in cui siamo capaci di fare meglio delle cose fisiche, psicologiche, mentali, e così anche nella malattia. Il fatto che tutto sia scritto nel DNA e che questi colleghi abbiano dimostrato in 50 anni di lavoro e di studi intensissimi come specifici geni o mutazioni possono modificare o da un certo punto di vista possiamo anche noi intervenire su questo tipo di attività genetica per far sì che si stia meglio, fra virgolette, si stia meglio nella nostra giornata seguendo i ritmi circadiani. Questo è assolutamente molto importante, molto importante. Grazie professor Manfredini per essere stato con noi, per aver commentato questa bella notizia. Torneremo naturalmente anche a Obiettivo Salute su questo tema, dedicando una puntata intera, e proprio insieme al professor Manfredini, che avremo ospite di Obiettivo Salute, speriamo prestissimo. Grazie professore. Intanto naturalmente la programmazione di Radio 24 continua con Melog. Io vi aspetto invece in diretta video, perché è partito un mese molto importante, il mese di prevenzione per il tumore al seno. Vi aspetto in diretta video con la dottoressa Luini per parlare di prevenzione, per parlare di cura, per raccogliere anche tutti i vostri dubbi e le vostre esperienze. Per oggi Obiettivo Salute è tutto, io vi aspetto domani, vi aspetto in diretta video. Buona giornata.